12 maggio 2008. L'ignota deputata del PDL, Valentina Prea, presenta un progetto di legge dal roboante titolo «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti». Nella relazione di accompagnamento si sottolinea: l'istruzione, come servizio esclusivamente statale, seppure ha prodotto effetti positivi come la scolarizzazione di massa, oggi appare una gabbia che limita le opportunità da offrire ai nostri giovani e la libertà di scelta in campo educativo. Poveri giovani, alla mercé di professori privilegiati, parassiti dello Stato, nulla facenti, che ti riempono la testa di tante fandonie maoiste e di pietriste, pretendono di inculcarti un senso critico che non ti faccia uniformare liberamente al pensiero unico dominante. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Vale insieme a me. Insieme a me. E vedrai che poi, e vedrai che poi ti passerà. Mi vuoi dire perché? Mi vuoi dire perché? Non sorridi più, non sorridi più. Balla insieme a me, balla insieme a me, poi ti passerà. Buonasera da Anna Damolo. Oggi la nostra Anna Damolo di Genova ci ha lasciato e l'abbiamo sostituita con Anna Damolo di Radiovisioni, che ringraziamo, e dedichiamo questa puntata alla scuola. Abbiamo un ospite, prego. Ciao, sono Anna Damolo. Ciao Anna Damolo, che nomi fantasiosi abbiamo in questo programma. Oh, allora, cosa fa nella vita Anna cosa fai nella vita Anna Damolo? Insegno filosofia e scienze sociali al liceo Pierelli di Perugia. Altra persona inutile abbiamo quest'oggi, va bene. Professore di ruolo? Professore di ruolo, quindi privilegiata in pieno. Privilegiata in pieno, parassita dello Stato, va bene. Allora, Decisamente. E in quale, cioè, perché ha accettato di venire a partecipare a questo nostro programma? Perché fa parte di... Perché faccio parte del coordinamento provinciale Viva la Scuola Pubblica, che è nato quando? Che è nato l'anno scorso e riunisce tutte le componenti della scuola, insegnanti, genitori, studenti e ATA. Personale tecnico-amministrativo. Il personale tecnico-amministrativo della scuola, ed è nato proprio per rispondere e riflettere insieme su quello che sta accadendo alla scuola pubblica. Ok, specifichiamo che la nostra Anna Damolo parla come singola, cioè nel senso parla della propria esperienza all'interno del coordinamento e non parla a nome del coordinamento stesso, comunque questo per dovere di cronaca. Quindi abbiamo parlato già di scuola pubblica e cerchiamo di dare un senso cronologico però. Quindi agosto 2008 sappiamo che la legge 133 e la legge 137 hanno messo mano all'ordinamento della scuola pubblica in qualche modo, ma prima di partire dall'esame di che cosa ha cambiato questa legge, chiediamoci com'era la situazione pre-Gelmini, quindi pre-agosto 2008. Quali erano le cose buone, quali erano le cose cattive, cosa era buono, cosa era da salvare. Potremmo schematizzarla molto rapidamente in questo modo. La scuola pubblica italiana aveva una scuola primaria d'eccellenza, riconosciuta a livello internazionale come tra le migliori. Quindi una buona scuola elementare. Una ottima scuola elementare, una scuola media inferiore con criticità abbastanza accentuate e una scuola media superiore ugualmente con diversi problemi da affrontare. Sì, io vabbè, essendo figlio di insegnanti ho vissuto dall'altra parte, diciamo, quel tentativo di riforma che è cominciato a metà degli anni 90 con l'introduzione dell'autonomia, dei presidi manager. E tu da docente, anche se magari non eri proprio docente in quel periodo, che cosa pensi? Che cosa ha portato effettivamente l'introduzione dell'autonomia nella scuola? Vabbè, io parlo di secondaria superiore perché i miei insegnavano in secondaria superiore. L'autonomia è stata una splendida promessa, per molti aspetti poi rivelatasi problematica. Autonomia significa poter utilizzare risorse, competenze, professionalità direttamente nel territorio e secondo le necessità che emergono di volta in volta. Quindi in teoria si tratta del migliore e più efficace strumento per dare una scuola di qualità a tutti. In realtà l'autonomia ha poi introdotto una serie di obblighi, di adempimenti che gravano sul lavoro insegnante, distogliendo spesso gli insegnanti da questo lavoro e causando appunto diverse problematiche. L'autonomia ha introdotto la possibilità di fare corsi pomeridiani, ha moltiplicato, io vedevo i miei che andavano tantissime volte il pomeriggio, quindi contraddicendo l'idea che si fa la gente che un insegnante insegna solo 18 ore, che poi per insegnare 18 ore ci vogliono almeno altrettanto per prepararsi alle lezioni. Poi a parte questo, appunto, vedevo partecipare a molti collegi dei docenti, a parte collegi, anche cose tipo relazioni interdisciplinari, collegi, sì, i famosi dipartimenti, sì, queste certamente. Cose strane che in sostanza. Quindi quello che effettivamente non è molto noto è che gli insegnanti lavorano moltissimo nella scuola anche quando non erogano lavoro, ore di insegnamento frontale. Ma fanno comunque lavoro intellettuale. Produzione cognitiva. Fanno lavoro intellettuale e lavoro organizzativo. La scuola è un'enorme macchina organizzativa che ha bisogno di moltissimi spazi e tempi da dedicare alla preparazione di quello che poi è la lezione frontale. Quindi effettivamente da quando c'è l'autonomia queste ore sono lievitate, l'impegno degli insegnanti a scuola è effettivamente aumentato. E poi sono lievitate anche le attività extracurricolari, tipo il pomeriggio, ma molti insegnanti si fermano per anche fare questo è corsi poco noto, di teatro, gli insegnanti per sono fare molto corsi spesso di a lingua, scuola di pomeriggio. Esatto, diciamocelo questo, perché molti corsi di recupero degli alunni, insomma. Quindi tutta una serie di attività che se fossero effettivamente mirate all'insegnamento e se fossero effettivamente retribuite in modo diretto, cioè questo nel senso con, no, no, con lo stesso onorario con cui si paga un'ora normale a lezione, farebbero, diciamo, lievitare di parecchio lo stipendio nel senso stipendio che ciò vuol dire che l'insegnante non viene esattamente pagato per tutto ciò che produce. Comunque no, diciamo, è noto che il salario dell'insegnante è estremamente basso ed è il più basso d'Europa, tra i più bassi forse, non so, nel mondo sviluppato. Ma questo è ancora un altro problema, sì, sì. Di fatto le criticità del lavoro insegnante sono altre e diverse. Sì, torniamo al problema, diciamo che le leggi a partire dalla 133 dell'agosto del 2008 o la stessa 137 che è stata approvata ad ottobre del 2008. Dunque, quali sono stati gli effetti dei cambiamenti introdotti da queste leggi? Allora, bisogna dire che ciò di cui parli è di fatto una legge finanziaria che prevede la sottrazione alla scuola pubblica nell'arco di 3 anni di 8 miliardi di euro di finanziamenti. Quindi, poiché si tratta di una riforma che va a regime in 3 anni, gli effetti attuali sui vari gradi di istruzione non sono ancora così percepibili. La prima ad essere riformata, tra virgolette, è stata la scuola primaria. Il famoso maestro unico di cui si parlava l'anno scorso. Il famoso maestro unico. È stata la scuola primaria, quindi nella scuola primaria c'è già una diminuzione delle compresenze e c'è già una riduzione di fatto dell'offerta formativa che le scuole, proprio grazie all'autonomia di cui si parlava prima, cercano disperatamente di tamponare quegli spazi che ancora con quegli orari, con quegli insegnanti che ancora hanno a disposizione i presidi. Diciamo che per fortuna la campagna dell'anno scorso, anche se la 137 è stata approvata, ha portato molti ragazzi quest'anno, molte mamme, a scegliere comunque per i propri figli la compresenza e il tempo pieno implica in qualche modo la compresenza. Infatti c'è una netta scelta da parte delle famiglie, una scelta per l'opzione tempo pieno che contraddice in modo nettissimo nettamente il pensiero unico del maestro unico, diciamo. Contraddice appunto questa riforma facendo passare per volontà condivisa quella di arrivare al maestro unico, di togliere le compresenze. Questo, scusa se lo faccio per dire che comunque le lotte come quella dell'anno scorso, anche se non hanno prodotto il ritiro di leggi disastrose come queste comunque hanno svegliato in qualche modo almeno la coscienza di un po' di mamme che hanno i figli. Sì, hanno messo l'attenzione dell'opinione pubblica, delle famiglie che hanno figli nella scuola primaria, quella che era l'offerta formativa prima della riforma e quello che può diventare la scuola poi. Ok, allora, visto che abbiamo parlato di primaria, prima di affrontare il problema delle secondarie superiori, prendiamo lo stacchetto. Immaginario collettivo, la scuola è sempre quella elementare. Io quando ero piccolo sentivo sempre ci vuole un fiore, quindi ne approfitto. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Allora, bentornati. Allora, abbiamo parlato della scuola primaria nella precedente, alla fine del precedente, della precedente parte, quindi ora parliamo della scuola secondaria, cioè che cosa ha introdotto la legge 133. Diciamo che anche in questo caso la riforma avrà il regime in più anni, cioè sono due parti, una parte che riguarda il riordino dell'assetto della scuola secondaria e una parte che riguarda la razionalizzazione dei fondi. Dove razionalizzazione è sempre inteso in senso, in senso diciamo, della retorica governativa. Allora, parliamo innanzitutto del riordino, del riassetto. E ci sarà una nuova divisione che in sostanza non cambierà niente, mi stava spiegando la nostra ospite. Di fatto un aspetto interessante di questo progetto di riforma è che si pretende di cambiare, quindi di riformare profondamente la scuola secondaria, razionalizzando gli indirizzi e gli ordinamenti, quindi riportando le sperimentazioni ai 6 licei, per esempio, e diminuendo poi gli indirizzi nella scuola tecnica, quando invece di fatto, sostenendo che le sperimentazioni sono inutili, non sarebbero state valutate, quando invece noto che molte di queste sperimentazioni sono gradite al pubblico, sono molto frequentate, quindi sono valutate da famiglie e studenti. E quindi verranno scaricate praticamente sull'autonomia della scuola, cioè la scuola dovrà garantire autonomamente con meno fondi le sperimentazioni gradite. Esattamente, di fatto accade questo, che si riduce il numero di indirizzi, ma proprio facendo leva sull'autonomia scolastica, quindi sulla conservazione di un 30-35% di monte orario a disposizione delle scuole per personalizzare i corsi di studio, si riattiverà nuovamente quella proliferazione di differenze che adesso, certo, si pretende di ridurre e di razionalizzare. Quindi, no, ovviamente con meno fondi. Gatto fondi pantesco a carico delle scuole, spese a carico delle famiglie. E ciò che cambia è effettivamente questo: chi paga la scuola pubblica? Saranno direttamente le famiglie e non più, cioè dovranno le famiglie pagarsi le cose gradite extra, diciamo. Se, cioè, ma probabilmente faranno cose del genere. Io non le chiamerei extra, perché si tratterà comunque no quelle che oggi sono curriculari, ma che un domani ti faranno passare come extra, diciamo. Di fatto gli insegnamenti fondamentali saranno garantiti dagli indirizzi dagli indirizzi dei vari licei e tecnici, mentre quelle che potremmo chiamare ore addizionali, ore opzionali, faranno comunque parte dell'indirizzo, ma saranno sempre più caricate sui fondi della scuola, che anche oggi possiamo vederlo, insomma, sempre più fa appello alla benevolenza dei genitori per varie cose, attività, per portare la carta igienica, anche per cose, fotocopie, per fare anche cose, servizi minimi per assicurare l'attività normale, il funzionamento normale della scuola. Non dobbiamo dimenticare un'altra cosa del riassetto. Questo riassetto in sostanza dequalificherà gli istituti professionali, introducendo quello che è stato una cosa molto simile, cioè introduce le scuole professionali, quindi praticamente mi pare che si chiameranno così. L'unica cosa che mancherà sarà la parola avviamento per ritornare indietro per di 40 ritornare indietro nel tempo, sì. Quindi manovalanza praticamente, cioè si nega ad una parte di popolazione che avrebbe diritto allo studio, si nega l'effettivo sì, diritto allo studio, opportunità di formazione fondamentale. Esatto. Questo è l'aspetto più grave di una riforma che ha già molti aspetti di criticità. Potremmo entrare nel merito della riduzione delle ore di indirizzo, per esempio nei vari licei, nei licei scienze sociali, delle ore di inglese, delle ore di informatica. Se entrassimo nel merito troveremmo, insomma, una fortissima riduzione della qualità proprio dell'offerta formativa delle diverse scuole. Ma il declassamento delle scuole professionali a formazione professionale, quindi il fatto che tutta una serie di utenti della scuola secondaria devono essere solo formati per andare a lavorare praticamente, vengano oggi tolti dalla formazione scolastica per essere inclusi in progetti di formazione esclusivamente professionale, sta a significare che si offre una parte ampia di pubblico scolastico, e quella sicuramente che oggi ha minori opportunità, che già oggi ha minori opportunità di formazione per motivi economici e per altri motivi, si offre non più un'offerta formativa ma una formazione professionale, quindi qualcosa che non ha più niente a che vedere con la scuola pubblica di tipo costituzionale prevista dal nostro ordinamento, di una scuola che forma le persone, i cittadini, ma ha a che vedere con un'idea di lavoratore, tra l'altro estremamente miope. Sì, sì, poi chiaramente... Perché si impoveriscono le opportunità. Un lavoratore che non saprà lottare per i propri diritti, che... Ma sarà soprattutto un lavoratore che non saprà lavorare. Che non saprà lavorare. Non avrà gli strumenti minimi di cognizione di una realtà in fortissimo cambiamento, e quindi non... sarà sicuramente qualcuno che non potrà spendere il meglio di sé per il lavoro del futuro. Quindi passiamo ora alla seconda parte, parlavamo di razionalizzazione dei fondi, che è un po' collegato al perché, ad esempio, a settembre, tra il 9 e il 10 settembre, il telegiornale è stato costretto a dire che c'era qualche professore che stava sui tetti a Benevento o in altri posti d'Italia. Perché questa razionalizzazione dei fondi, che cosa ha provocato all'inizio di quest'anno? Ha provocato per 40.000 docenti circa, tra insegnanti di sostegno e insegnanti in sostanza in possesso di un'abilitazione, che l'anno scorso avevano ottenuto delle cattedre complete, quest'anno non hanno potuto avere a settembre nomine annuali. Esattamente, quindi c'è una estromissione, un'espulsione. Esatto. Di una larga parte di insegnanti precari, che sono insegnanti abilitati e spesso con esperienza di lunga data, di più anni, a volte di più di un decennio di lavoro di insegnamento a scuola. Insegnanti quest'anno poi ha toccato circa 40.000 docenti e che poi sono stati anni salvati, cioè la retorica del governo poi è incredibile, cioè questi qua sono stati prima estromessi e poi la Gelmini se n'è uscita col decreto salva precari, chiamato così in modo veramente irritante, diciamo, che in sostanza ha introdotto delle condizioni capestro molto più forti per poter insegnare, no? In sostanza ha introdotto la necessità di dover accettare per forza la prima cosa che ti capita, cioè se tu firmi il decreto salva precari, la norma salva precari. Tra l'altro, certo, ci sono delle regole stringenti, per poter rimanere insomma tra i salvati e insomma per poter avere lo stipendio o sperare di avere lo stipendio, insomma. Certo. E sì, dicevamo la cosa molto interessante è che comunque da tenere presente è che non è che questi insegnanti si accaparrano ogni anno delle cattedre che non esistono, no, è tutto il contrario, cioè nella scuola ci sono cattedre effettivamente vacanti che non diventano, ma che non diventano cattedre di ruolo, cioè che non diventano cattedre che possono dar luogo a posti di tempo a tempo indeterminato. Quello che succede con i precari è molto semplice, ci sono posti di ruolo vacanti da anni che non vengono coperti con le immissioni a ruolo e che quindi danno luogo a una frammentazione della continuità didattica che ormai è un dato cronico dell'insegnamento nelle nostre scuole, perciò i precari sono costretti a muoversi, a ruotare, a non rimanere fermi sul posto, ma hanno sempre avuto fino a quest'anno una cattedra annuale, molto semplicemente perché queste cattedre sono disponibili. Mm-hmm. Esatto, quindi praticamente perciò le cattedre ci sono. Stabilizzare i precari significherebbe semplicemente fermarli, farli diventare di ruolo, quindi fermarli sulle varie scuole a fare quello e consentire, cioè, anche una continuità didattica maggiore, con chiaramente beneficio nella qualità dell'insegnamento e quindi assicurando la continuità didattica. Quello che invece il progetto Salve Precari prevede è che queste cattedre restino vacanti, che grazie all'aumento degli alunni per classe, all'accorpamento degli istituti e quella che passa per razionalizzazione, molti di questi insegnanti restino fuori dalle cattedre e quindi vadano ad assicurare delle ore addizionali, delle ore di miglioramento dell'offerta formativa del mattino, con un sostegno pomeridiano, con un sostegno per gli studenti che sono in difficoltà, quindi per attività residuali di fatto nella scuola. Perciò un'effettiva espulsione che viene semplicemente tamponata con questo. E diciamo che tra i vari obiettivi del coordinamento precari scuola, che un po' ha unito a partire da luglio o settembre di quest'anno nelle varie province italiane, ha un po' unito i vari coordinamenti che si erano formati l'anno scorso, tra cui proprio qui a Perugia anche il coordinamento Viva la Scuola Pubblica, è proprio quello di chiedere a livello nazionale e a livello regionale che cosa, come si intende in qualche modo rendere operativo questo salva precari, cosa fare, cosa non fare. Questa è, diciamo, un'avvertenza un po' più tecnica. Dal punto di vista invece un po' più l'idea invece che sta un po' di fondo alla nascita di questi coordinamenti è che invece comunque la scuola intesa come istruzione pubblica è effettivamente un bene comune che dovrebbe essere difeso come bene comune. E diciamo che ora facciamo una breve pausa perché abbiamo parlato anche abbastanza e affrontiamo nell'ultima parte questa prospettiva. C'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, il futuro dei bambini non fa rima con Cellini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, meglio dire no a Cellini che indossare i grembiulini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea. Noi diciamo no a Cellini, day and night. Noi diciamo no a Cellini, day and night. Ciao, mi chiamo Enea, vado all'Iqbal Masik e c'ho una magliettina verde mela molto chic, c'è scritto sopra io amo e difendo la mia scuola, ma che maestro unico, Gelmini sei una scuola, lo sai che sono grande, sto in prima elementare e ho già occupato la mia scuola per 2 settimane, dici che sono giovane, ho molto da imparare, ma siamo sotto attacco tutti e io mi do da fare, non sono certo solo, sto insieme alla mia mamma, sto con le mie maestre, abbiamo fatto una capanna con tutti i sacchi a pelo, i cuscini, i tappetini, qui non ci prenderà nessuno, nemmeno i cellerini, i grandi stanno sempre, dico sempre alla riunione, ma che ci avranno da parlare, o gioco un po' a pallone, sono tutti angosciati, ogni ora, ogni secondo, sembra che una gran disgrazia sia caduta sul mio mondo, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, il futuro dei bambini non fa rima con Cellini, c'ho un'idea, io ho 2 maestre, Mara e Simona, e se ci penso non so dirti quale sia più buona, e 20 amichetti uniti che è un prodigio, stiamo tutti insieme da mattina a pomeriggio, questa è la scuola pubblica, la scuola di tutti, la scuola che vogliono sfasciare questi farabutti, faccio fioccolate, lancio di palloncini, ora ho capito che c'è dietro la Gelmini, e il 137 e il 133, se taglieranno via Simona io saprò il perché, quest'aula sarà vuota, mancherò. Allora parlavamo di istruzione pubblica, abbiamo parlato finora di controriforma della scuola statale, in realtà in questo momento anche un'altra istituzione, un altro ente relativo all'istruzione è attaccato, cioè è soggetto a una grande controriforma, ovvero l'università, il famoso DDL Gelmini, del resto il ministro è lo stesso. E la domanda che mi viene da fare al nostro ospite è, allora cosa dovrebbe o cosa lega effettivamente la controriforma universitaria, la controriforma della scuola, e cosa dovrebbe legare anche la reazione degli studenti precari universitari ai docenti della scuola, eventualmente anche agli studenti medi? Ci sono aspetti molto concreti che legano i due aspetti di questa riforma, e anche aspetti appunto che ricadono direttamente sulla vita degli studenti da subito. Il primo aspetto che cade evidente sotto i nostri occhi è che c'è una privatizzazione in atto, e quindi così come alla scuola pubblica non universitaria si tolgono risorse per poter gravare poi sui bilanci familiari e quindi sugli studenti, all'università quello che accade è lo stesso, e cioè si privatizza l'università, si aumentano le tasse universitarie sicuramente. E si privatizza ciò che viene prodotto dentro l'università, cioè viene attribuito ad altri ciò che l'università effettivamente produce, grazie anche a studenti. Si lega di fatto l'università strettamente a un mondo economico, e quindi non alla società stessa. Quindi c'è una sottrazione dell'università all'intera nazione, uh-huh, per poterla poi legare agli interessi economici. Parlavamo specifici di bene comune prima, l'istruzione è un bene comune, cioè sia la scuola che scuola statale, l'università sono beni comuni, nel senso che sono beni che, cioè sono enti all'interno del quale si produce lavoro immateriale, diciamo, non è che si producono macchine o vestiti all'interno dell'università o della scuola, però sono beni immateriali che dovrebbero avere, appunto come diceva la nostra ospite, una ricaduta nel territorio di competenza, cioè una ricaduta immediata sul territorio, non devono essere beni di cui si devono appropriare solo alcuni, cioè solo gli amici di quelli che siedono all'università, per dirla in modo. E questo fatto che appunto c'è, insomma, facciamo la domanda: cosa farà la nostra ospite l'11 dicembre? Beh, l'ospite sarà a Roma a manifestare, senza dubbio. Ah, sempre tutti a manifestare, questi, tutti sepolti. E cosa manifestare all'interno, perché sappiamo che la CGIL ha proclamato lo sciopero generale del pubblico impiego, giustamente per oscurare ancora una volta quello che doveva partire come uno sciopero dei precari della scuola, e invece c'è anche un'altra ci dovrebbe essere anche un'altra manifestazione dell'Onda che parte dalla Sapienza e diretta al Ministero, cioè lì dove in realtà le decisioni di controriformare università e scuola sono state prese. La nostra ospite cosa pensa, cosa auspicherebbe e cosa realmente si aspetta che l'11 accadrà, magari, senza vaticinare troppo. Rispetto alla piattaforma CGIL, l'ospite pensa che effettivamente si tratta di una piattaforma estesa, forse un po' troppo estesa. Il problema della scuola è sicuramente un'emergenza assoluta in questo momento, in questa fase, anche se bisogna dire che... Mentre No. E quindi? No, quindi mentre la piattaforma sembra estesa, di fatto è riduttiva. Di fatto è riduttiva, perché il problema della scuola è un'emergenza di una... È oscurante, diciamo, del problema della scuola. Quindi, ministero o Piazza del Popolo? Facciamo, mettiamo... Ministero. Allora andiamo tutti al ministero con l'onda, speriamo di essere numerosi, di essere precari della scuola, precari dell'università, studenti medi. E salutiamo, perché quest'oggi abbiamo parlato anche più del normale. Ci rivediamo la settimana prossima, in cui parleremo di studenti e lavoro. Le nostre voci hanno già suonato.